Ora, disinteressato, sfidi le passioni che ti hanno divorato, ti giudichi e applaudi alla tua liberazione. Dove sarebbero diretti i tuoi rimpianti? Sarebbero per me. Ma il futuro appartiene a entrambi, a Tremor? Ma Tremor ti avrebbe salvato se la tua salvezza su questa terra fosse stata possibile, dal momento che la sua anima, purificata dall'espiazione, non ha trovato parole abbastanza eloquenti per convincerti. Dal momento che il suo braccio, messo alla prova dalla tortura, non ha avuto abbastanza energia per convincerti, per allontanarti dalla strada fatale che hai imboccato, è perché Dio non l'ha voluto. Nel lasciarti andare, Trenmore ha riconosciuto nella tua fuga la traccia misteriosa di un decreto che non spettava a lui interpretare. Finché poteva seguirti con gli occhi, ti gridava con voce ostinata: torna da noi, torna, Astenio, ti sosterremo. Ma quando la tua corsa veloce aveva messo tra te e Trenmore uno spazio invalicabile, allora il saggio dovette tacere e il saggio tacque. Ti sei gettato nelle braccia della morte, hai chiesto a questa padrona inesorabile e gelosa un rifugio dalle seduzioni bugiarde della vita. Che le sue carezze ti siano dolci, Stenio. Dormi in pace sul freddo letto dove volevi sposare l'oblio. Così giovane, eppure così bello, come non sperare? Come faccio a stare ancora in piedi, io che ho visto tutto consumarsi e appassire intorno a me? Io che non posso più dare o provare amore, perché sono qui a contemplarti? Perché non sono io quella che giace in questa bara? Lelia taceva e, incrociando le braccia sul petto, contemplava in silenzio la bellezza dell'uomo di cui aveva rifiutato le carezze e di cui aveva respinto i trasporti. Le piaceva il suo pallore livido, le sue labbra blu come un'aquilegia bagnata, i suoi capelli radi sulla fronte, lunghi e folti sulle spalle, i capelli biondi, srotolati nelle acque del lago. Si erano asciugati al vento della collina e avevano riacquistato la naturale ondulazione dei loro graziosi riccioli, l'ultima ricchezza che aveva resistito a lungo alle ingiurie della fatica e della malattia, l'ultima bellezza che doveva sopravvivere all'imminente dissoluzione del cadavere, fluttuava, setosa e viva, su quella fronte gelata, come nei giorni in cui il poeta bambino correva al sole del mattino lungo i sentieri fioriti della montagna. Lelia ricordava i giorni in cui lo aveva amato di più. È stato quando era un poeta piuttosto che un amante, in quei primi giorni del loro affetto. La passione di Stenio aveva qualcosa di romantico e angelico. In quel periodo non pensava ad altro che a cantare per Lelia e a pregare per lei, a sognarla o a contemplarla in un'estasi silenziosa. Più tardi i suoi occhi si erano animati di un fuoco più virile, il suo labbro aveva cercato e preteso più avidamente un bacio, la sua poesia aveva espresso trasporti più selvaggi, e fu allora che l'indifesa Lelia si era sentita spaventata, stanca e quasi disgustata da questo amore che non condivideva. Ora trovava Stenio calmo e raccolto, come lo aveva conosciuto, come lo aveva amato. Eccoti, mio poeta, gli disse. Come spesso ti ho contemplato a tua insaputa, spesso nelle nostre corse sognanti ti ho visto, più debole di Trenmore e di me, cedere alla fatica e addormentarti ai miei piedi nella calda brezza di mezzogiorno, tra i fiori della foresta. Chinandomi su di te, ho protetto il tuo sonno, ho tenuto lontano da te gli insetti maligni, ti ho coperto con la mia ombra, quando il sole bucava i rami per gettare un bacio ardente sulla tua giovane e bella fronte. Mi sono messa tra te e lui. La mia anima, dispotica e gelosa, ti ha avvolto nel suo amore, e il mio labbro silenzioso a volte sfiorava l'aria calda e profumata che fremeva intorno a te. Ero felice allora e ti amavo. Ti ho amato quanto ho potuto amare. Ti ho respirato come un bel giglio. Ti ho sorriso come un bambino, ma come un bambino pieno di genio. Avrei voluto essere tua madre e poterti stringere tra le mie braccia senza suscitare in te i sensi di un uomo. Altre volte ho colto il segreto delle tue passeggiate solitarie. A volte, chinandoti sul bacino limpido di una sorgente o appoggiandoti al muschio secolare delle rocce, guardavi il cielo nell'acqua. Per la maggior parte del tempo i tuoi occhi erano semichiusi e sembravi morto a tutte le impressioni esterne, proprio come ora. Sembravi raccoglierti e guardare dentro di te il divino e gli angeli riflessi nel misterioso specchio della tua anima. Ed eccoti qui, come allora, un adolescente fragile, ancora senza vigore né desiderio, estraneo alle ebbrezze e alle sofferenze della vita fisica. Promesso sposo di una vergine dalle ali dorate, non avevi ancora gettato il tuo anello nelle onde tempestose delle nostre passioni. Sono passati tanti giorni, tanti mali, da quel sereno mattino in cui ti ho incontrato come un giovane uccello che apre le sue ali tremanti alle prime brezze del cielo. Abbiamo vissuto e sofferto da quell'ora in cui mi hai chiesto di spiegarti l'amore, la felicità, la gloria e la saggezza, come un bambino che ha creduto in tutte queste cose e che ha cercato in me questi tesori immaginari. È vero che tante lacrime, tante paure, tante delusioni ci separano da questa melodiosa pastorale. I tuoi passi, che avevano piegato solo i fiori, hanno poi camminato nel pantano e sulla ghiaia. La tua voce, che cantava armonie così dolci, è diventata rauca per le grida da ubriaco. Il tuo petto, che era pieno e dilatato nell'aria pura di montagna, si è seccato e bruciato nel fuoco dell'orgia. E il tuo labbro, che gli angeli erano venuti a baciare nel tuo sonno, è stato sporcato da labbra infami. Hai sofferto tanto, arrossito tanto e lottato tanto, Stenio, o amato figlio del cielo. Ma sei ancora bello e sereno, come quando appoggiavi la fronte sulle mie ginocchia per dormire nel vento delle notti di mare. Le tue mani sono bianche eppure, le tue ginocchia non sono rotte da tante cadute, eppure, povero poeta, hai strisciato tra le spine, ti sei graffiato sulle pietre taglienti, ti sei sporcato, insanguinato, sfinito, abbracciando la realtà orrenda e feroce. Hai lottato con quella leonessa dal pelo ruvido, ti sei ubriacato dell'odore dei suoi fianchi ignobili. Sei caduto sotto di lei, preso dall'orrore e dal disgusto, e per vendicarsi ti ha divorato le viscere. Ma Dio ti ha custodito, anima inviolabile e santa. Nessuna orgia, nessuna donna amorosa, nessuna amicizia bugiarda ti ha posseduto. Sei rimasto vergine in un corpo prostituito a tutte le dissolutezze, come un diamante il cui fuoco è stato rubato dai raggi purissimi del sole. Sei rimasto sepolto nella roccia che ti proteggeva. E la lussuria non ha sospettato il tesoro che gli nascondevi e che volevi restituire a Dio splendente e puro come l'avevi ricevuto. Hai fatto bene a morire, Stenio. La tua grande anima stava soffocando in questo corpo delicato e fragile, in questo mondo senza sole. Non eravamo degni di te. Ci hai rifiutato il tuo amore, hai ritirato i tuoi desideri, le tue carezze. Tornare a Dio, angelo, fuorviato dalle nostre vie impure. Proteggici, perdonaci per non averti dato ciò che hai chiesto. Eravamo esseri umani e tu eri migliore di noi. Vai, Stenio, ci incontreremo di nuovo e allora saremo degni l'uno dell'altra. La mia anima è sorella della tua, è annoiata, è stanca, è indignata per tutto, come la tua. Ha desiderato senza ottenere, ha lavorato senza raccogliere. Dio mi condanna a espiazioni più lunghe perché, più prudente o più timorosa di te, mi sono sottratta alle prove che tu volevi affrontare. Ho evitato i pericoli in cui tu ti sei gettato. Un male più lento deve divorarmi affinché la giustizia eterna sia soddisfatta. Ma che valore hanno questi giorni così lunghi sulla terra, di fronte all'eternità in cui tu sei già entrato? Come sarai quando io mi sarò unita a te? Forse allora saremo uguali, forse saremo amanti, fratello e sorella. Oggi oso a malapena guardarmi come tua sposa e il mio rispetto che la morte ti ha restituito apre a malapena questo santuario di amore e di speranza. Ostenio, lascia che ti implori come tu mi imploravi un tempo, che io ti tema e ti adori come potenza al di sopra di me, che io preghi e gema. È una vendetta che Dio ti permette e che Dio ti dà. Ti amo in ginocchio, ora che sembri sordo alle mie confessioni, insensibile alle mie carezze. Ricevi i miei giuramenti, ricevi i miei baci. Ti ho amato, Stenio, ti ho amato più di quanto tu possa capire e condividere. Mi sentivo indegna di te, non volevo contaminare la santità della tua anima. Se Dio si fosse degnato di restituirmi la mia ardente giovinezza e il mio cuore vergine, se la mia immaginazione non si fosse depravata all'inseguimento di venti chimere, se il mio amore non fosse stato dato e ritirato, se l'errore, la disperazione, la debolezza non mi avessero inaridita, sarei stata tua, ma la tua giovinezza pensava di vedere in me tutte le virtù, tutta la grandezza che io non avevo più. Tu ti saresti dato a me senza riserve, e io ti avrei impoverito, inaridito e prosciugato. No, non volevo approfittare del tuo errore. E ora questo è il mio unico titolo per te. Addio, Stenio, addio, addio, tu solo amato con un amore nobile e forte, pietà per me, io vivrò. Posò un ultimo bacio sulle labbra violacee di Stenio, staccò un fiore appassito dalla sua corona e lo posò sul suo cuore, riprendendo il cammino verso la valle, senza aver prestato attenzione al monaco che in piedi nell'ombra, appoggiato rigidamente alla parete della grotta, la fissava con i suoi occhi scintillanti. La ragione di Magnus lo aveva abbandonato, non capiva nulla dei discorsi di Lelia, poteva solo vederla e trovarla bellissima. La sua passione si risvegliava con violenza, poteva solo ricordare i desideri che aveva così a lungo soppresso e che lo divoravano più che mai. Quando la vide baciare Stenio, una terribile gelosia, che non aveva mai conosciuto perché non aveva mai avuto occasione di provarla, esplose in lui. Oh, avrebbe colpito Stenio se avesse osato, ma quel cadavere lo spaventava e il desiderio si accese in lui ancora più intenso della vendetta. Si precipitò dietro Lelia e mentre lei svoltava lungo il sentiero la afferrò per un braccio. Lelia si girò senza gridare né indietreggiare e guardò quella figura contratta, quell'occhio insanguinato, quella bocca tremante, senza paura e quasi senza sorpresa. Donna! Disse il monaco, mi hai fatto soffrire abbastanza, adesso consolami, amami. Lelia, non riconoscendo in questo monaco calvo e chino il sacerdote che aveva visto giovane e fiero qualche anno prima, si fermò stupita. Padre mio, disse, rivolgiti a Dio, il suo amore è l'unico che può consolare. Non ricordi, Lelia? Rispose il monaco senza ascoltarla, che sono stato io a salvarti la vita, senza di me saresti morta tra le rovine del monastero dove hai trascorso 2 anni. Ti ricordi, donna? Mi sono gettato in mezzo alle macerie che stavano per schiacciarmi. Ti ho presa, ti ho messa sul mio cavallo e ho viaggiato tutto il giorno tenendoti in braccio e non ho osato baciare la tua veste. Ma da quel giorno un fuoco divorante si è acceso nel mio petto. Invano ho digiunato e pregato. Dio non mi ha guarito. Tu devi essere mia. Quando sarò placato, sarò guarito. Farò penitenza e sarò salvato, altrimenti diventerò di nuovo pazzo e sarò dannato. Ti conosco bene, Magnus, rispose lei. Ahimè, ecco il frutto della tua espiazione e delle tue battaglie. Ah, non prendermi in giro, donna, rispose con uno sguardo cupo, perché io sono vicino all'odio come all'amore, e se tu mi respingi, non so cosa possa consigliarmi la rabbia. Lasciami il braccio, Magnus, disse Lelia con sereno disprezzo. Siediti su quella roccia e ti parlerò. C'era così tanta autorità nella sua voce che il monaco, abituato alla sottomissione passiva, obbedì come per istinto e si sedette a 2 passi da lei. Il cuore gli batteva così forte che non riusciva a parlare. Le prese la testa sanguinante e dolorante con entrambe le mani e raccolse tutte le forze e la memoria che gli rimanevano per ascoltare e capire. Magnus, disse Lelia, se quando eri ancora giovane e capace di realizzare un'esistenza sociale mi avessi consultata sul tuo futuro, non ti avrei consigliato di farti prete. Il tuo organismo deve averti reso impossibile svolgere quei rigidi doveri che si adempiono solo nella pratica. Sei stato un cattivo sacerdote, ma Dio ti perdonerà perché hai sofferto molto. Ora è troppo tardi per tornare alla vita ordinaria. Hai perso la forza per raggiungere qualsiasi virtù. È necessario attenersi all'astinenza, anche se ho poca fiducia nell'efficacia delle tue mortificazioni e delle pratiche della tua vita monastica, penso che tu debba aspettare in ritiro la fine delle tue sofferenze. Non tarderà ad arrivare. Guarda le tue mani, guarda i tuoi capelli grigi. Buon per te, Magnus, perché io sono così vicina alla tomba. Vai, disgraziato, non possiamo fare nulla l'uno per l'altra. Hai commesso un errore, ti sei isolato dalla vita e hai sentito il bisogno di vivere. Ora ne hai paura e pensi di poter placare i tuoi desideri con il godimento. Stupido marmocchio. Non è più tempo di pensarci. Avresti potuto trovare la felicità nella libertà qualche anno fa. La tua ragione avrebbe potuto essere illuminata, la tua anima attemprata contro i vani rimorsi, ma oggi l'orrore, il disgusto e il terrore ti seguirebbero ovunque. Non potresti conoscere l'amore. Lo scambieresti sempre per un crimine e l'abitudine di chiamare peccaminose le gioie legittime ti renderebbero criminale, ti renderebbe criminale quell'abitudine e vizioso agli occhi della tua coscienza tra le braccia della donna più pura. Rassegnati, povero monaco. Abbassa il tuo orgoglio. Pensa di essere abbastanza grande per questa terribile virtù del chiostro? Ti sbagli, te lo dico io. Ma che importanza ha? Sta arrivando alla fine dei tuoi problemi. Applicati per non perderne il frutto. Non sei stato abbastanza grande perché Dio ti perdoni la disperazione. Non sei stenio. Magnus aveva ascoltato invano, il suo cervello si rifiutava di usare qualsiasi facoltà, soffriva, credeva di capire che Lelia si stesse prendendo gioco di lui, il volto tranquillo e fiero di quella donna lo umiliava profondamente, a volte la odiava e voleva fuggire da lei, ma si riteneva afferrato e affascinato dall'occhio del diavolo. E alla fine la sua debole ragione cedette a quest'ultima lotta, si alzò e le prese di nuovo il braccio. Ora, disse, ho capito cosa sei. Ho spesso pensato di riconoscere il diavolo in te, ma ti sei nascosto sotto dei lineamenti così belli che mio malgrado ti ho preso per una donna. Ora i miei occhi si sono aperti e mi sento abbastanza forte per combatterti e colpirti. Torna sulla terra, Satana, ti maledico! Lelia, vedendo la furia e lo sconcerto nei suoi occhi, lottò con tutte le sue forze per liberarsi da quella mano di ferro che le stava procurando dei lividi sul braccio, ma pronunciò delle formule di esorcismo e, sorpreso dal fatto che lei non scomparisse, divenne completamente pazzo e pensò solo ad ucciderla, come aveva spesso pensato di fare in passato. Sì! Sì, gridò, quando sarai morto non ti temerò più, ti dimenticherò e potrò pregare. E la strangolò. Un'ora prima della luce del giorno, gli abitanti della valle sentirono degli spaventosi ululati passare davanti alle loro case, come se un uomo divorato dai lupi stesse scappando, trascinando le sue interiore a lungo il sentiero. Le paure superstiziose che li avevano spinti ad abbandonare la grotta impedivano loro di uscirne. Questi uomini, coraggiosi di fronte al pericolo reale e solidali con qualsiasi disgrazia utile, non osavano affrontare quello che ritenevano un mistero diabolico. Era il monaco che fuggiva dalla vista del suo crimine e urlava di terrore, credendosi inseguito dagli spettri di Lelia e Stenio. Non fu mai più visto nel paese. Lelia si trascinò in ginocchio con le mani fino al letto funebre dove giaceva Stenio, ebbe ancora la forza di abbracciarlo e di dirgli con voce rotta: Benedetto sia chi ci ha fatto incontrare. Poi rivolse l'ultimo sguardo al cielo che stava diventando bianco all'orizzonte. La mattina sarà bellissima, pensò Lelia. Terra, rallegrati, tutto passa, tutto muore, tutto ritorna a Dio. E cadde. Fu trovata morta ai piedi di Stenio. Il rosario di Magnus era così stretto intorno al suo collo che fu necessario tagliare il cordone di seta per rimuoverlo. Lelia fu sepolta in Terra Santa, ma non nel recinto riservato alla sepoltura dei religiosi, nella parte del cimitero che confinava con il burrone. Fu costruita per lei una tomba simile a quella dell'altro lato dove era sepolto Stenio. Una sera Trenmore, dopo essersi ripreso dalla caduta e aver terminato il funerale dei suoi due amici, scese lentamente sulle rive del lago. La luna al suo sorgere gettò un raggio obliquo sulle due tombe bianche che il lago separava. Le lucciole si alzavano, come sempre, sulla superficie nebbiosa dell'acqua. Trenmore guardò con tristezza il loro pallido bagliore e la loro danza malinconica. Ne notò due che provenivano da sponde opposte, si univano e si inseguivano, e rimanevano insieme tutta la notte. Sia che venissero a giocare tra le canne, sia che scivolassero sulle onde tranquille, sia che restassero a tremare nella nebbia come due lampade che stanno per finire. Trenmore si lasciò dominare da un'idea superstiziosa e gentile. Passò tutta la notte a seguire quelle luci inseparabili che si cercavano e si seguivano come due anime innamorate. Due o tre volte si avvicinarono a lui ed egli le chiamò con due nomi cari, versando lacrime come un bambino. Quando arrivò la luce del giorno, tutte le lucciole si spensero. Le due misteriose fiammelle rimasero ancora per qualche tempo al centro del lago, come se avessero trovato difficile separarsi. Poi furono allontanate entrambe in direzioni opposte, come se ognuna andasse alla tomba che abitava. Quando si spensero, Trenmore si passò una mano sulla fronte, come per scacciare un sogno indebolito di una notte di dolore e tenerezza. Si avvicinò alla tomba di Stenio e per un attimo si fermò incerto. «Che cosa farò senza di te nella vita?» gridò. «A che cosa servirò? Di chi mi prenderò cura? A cosa mi serviranno la mia saggezza e la mia forza se non ho amici che mi confortino e mi sostengano? Non sarebbe meglio avere una tomba vicino a questa bella acqua, accanto a queste due tombe silenziose?» «Ma no, l'espiazione non è finita per me. Magnus potrebbe essere ancora vivo, forse posso curarlo. E inoltre, ovunque ci sono uomini e donne che lottano e soffrono, ovunque ci sono doveri da adempiere, forze da impiegare, destini da realizzare.» E salutò da lontano il marmo che ospitava Lelia, baciò quello dove dormiva Stenio, poi guardò il sole, quella torcia che doveva illuminare i suoi giorni di lavoro, quel faro eterno che gli mostrava la terra dell'esilio dove bisogna agire e camminare, l'immensità dei cieli sempre accessibile alla speranza dell'uomo. Raccolse il suo bastone bianco e si rimise in cammino. Fine.